Lo scorso giugno l'American Medical Association, la principale organizzazione medica statunitense, ha discusso e approvato un documento in cui si definisce la violenza contro le donne transessuali, in particolare contro quelle di colore, un'epidemia. Il documento è una risposta ad un dossier pubblicato all'inizio di quest'anno dall'organizzazione The Human Rights Campaign. Il dossier analizza i dati relativi al 2018 e sottolinea come delle 26 donne transessuali uccise lo scorso anno, l'82% erano donne di colore, più della metà non avevano compiuto neanche 35 anni e il 55% viveva nel sud degli Stati Uniti. Questi dati sono molto probabilmente incompleti, considerando la diffidenza che la comunità transessuale nutre nei confronti della polizia americana. Spesso i suoi membri decidono di non denunciare atti di violenza nei loro confronti. In altri casi è la stessa polizia o gli stessi familiari delle vittime a rendere questo tipo di violenza invisibile, semplicemente non riconoscendo la nuova identità di genere delle vittime. Non è un caso quindi che in almeno il 74% dei casi analizzati nel dossier, la polizia abbia, almeno all'inizio delle indagini, erroneamente identificato le vittime come uomini. I dati ufficiali relativi al 2019 non sono per niente incoraggianti e non fanno altro che confermare come l'odio per il diverso sia uno dei tratti principali dell'America di Trump. Ad oggi, almeno 18 sono le donne transessuali che sono già state uccise negli Stati Uniti. I dati diventano ancora più allarmanti se consideriamo i casi di violenza diretti contro l'intera comunità LGBTQ. Secondo i dati presentati in un dossier recentemente pubblicato dalla National Coalition of Anti-Violence Programs, tra maggio e luglio di quest'anno, mesi in cui si celebra il Pride in ormai in tutto il mondo, negli Stati Uniti sono stati uccisi almeno 14 membri della comunità queer, di cui la metà erano donne transessuali di colore. Sempre nello stesso periodo, altre due donne transessuali sono invece morte in carcere. Joana Medina, una donna transessuale del Salvador richiedente asilo politico, è deceduta in un centro di detenzione gestito dall'ICE. Lailene Gubilet Polanco è invece deceduta nella sua cella in un carcere di New York. In entrambi i casi, i decessi sono il risultato delle inadeguate strutture mediche all'interno dei due centri di detenzione. Sempre secondo i dati raccolti dalla National Coalition of Anti-Violence Programs, ben 22 sono state le proteste anti-LGBTQ organizzate durante i mesi del Pride. 18 di queste manifestazioni hanno preso di mira un'iniziativa promossa in numerose biblioteche degli Stati Uniti dal titolo Drag Queen Story Hours. L'obiettivo dell'iniziativa era quello di invitare drag queen a condividere le loro storie personali con gruppi di bambini e bambine, promuovendo in questo modo una cultura di inclusività tra i più giovani. Nei forum di estrema destra, gli organizzatori di queste proteste non solo invitavano i partecipanti a bloccare queste iniziative, anche con azioni violente, ma anche a condividere online informazioni personali relative alle drag queen che decidevano di partecipare a questi eventi culturali. Il collegamento tra la politica di Trump e questo clima di violenza non è difficile da fare. Sin dall'inizio del suo mandato, Trump ha promosso una serie di disegni di legge che mirano a cancellare numerose conquiste che la comunità queer ha ottenuto durante la presidenza Obama. Per esempio, nell'estate del 2017, Trump promosse l'esclusione di persone transessuali dalle forze armate. Tra le motivazioni addotte, Trump ha sostenuto che la loro presenza tra le file dell'esercito rischia di ridurne l'efficacia. Un bando questo che è tuttora in vigore, in attesa del pronunciamento della Corte Suprema degli Stati Uniti. Quest'anno la Corte Suprema si troverà a discutere un'altra importante questione che tocca direttamente la comunità queer americana. Martedì scorso, infatti, la Corte ha ascoltato per la prima volta nella sua storia un caso di discriminazione nei confronti di una donna transessuale. Aimee Stevens è stata licenziata nel 2013, subito dopo aver deciso di rivelare al suo datore di lavoro la sua vera identità di genere. In questo, come in altri due casi simili riguardanti due uomini gay, la Corte Suprema deve decidere se l'articolo 7 del Civil Rights Act è applicabile a questi casi di discriminazione. L'articolo in questione vieta qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di un individuo sulla base del colore della loro pelle, nazionalità, religione o sesso, e la Corte deve decidere se per sesso si deve anche intendere la nozione di orientamento sessuale e identità di genere. La cosa interessante e allo stesso tempo incredibile del caso riguardante il licenziamento di Amy è che inizialmente fu proprio il governo federale, allora ancora guidato da Obama, a denunciare il datore di lavoro per discriminazione nei confronti della donna. Ora invece il caso discusso davanti alla Corte Suprema vedrà il governo degli Stati Uniti schierato al fianco del datore di lavoro. Questa Corte Suprema è ovviamente molto diversa da quella che pochi anni fa dichiarò i matrimoni omosessuali costituzionali. Dopo le ultime due nomine di Trump, infatti, la Corte ha una chiara maggioranza conservatrice. In questo contesto è anche importante ricordare che in questa sessione la Corte Suprema discuterà anche un caso riguardante il diritto all'aborto. I prossimi mesi, quindi, saranno decisivi per capire se la campagna d'odio per il diverso che ha invaso le strade americane e portato Trump fin dentro la Casa Bianca invaderà anche i suoi tribunali.